Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Torniamo dunque ad approfondire alcuni temi insieme all'Adico di Mestre. Ritroviamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti. Allora, manca poco a Pasqua e allora parliamo di temi pasquali, anzi di dolci tipici pasquali, le colombe e le uova di cioccolato. Voi avete fatto un'indagine sui prezzi. Certo, anche quest'anno l'Adico, come ogni anno, fa sempre questa comparazione dei prezzi dei dolci di Pasqua, qui parliamo quindi dalle uova alle colombe, per verificare un po' l'andamento e il trend che questi prezzi hanno, e li abbiamo paragonati su quelli che sono i valori dell'anno scorso. Un'indagine che abbiamo fatto con risparmiosuper.it, che è un sito leader in Italia nella comparazione dei prezzi degli articoli della grande distribuzione, e abbiamo analizzato quelli che sono circa 45 beni inseriti in un paniere e abbiamo rilevato quelli che sono i prezzi proposti dalla grande distribuzione e la media distribuzione in tutto il Veneto, articolata per ogni provincia. Per ogni provincia, e cosa viene fuori? Che anche in questo settore ci aumentano i prezzi? Sì, purtroppo è emerso che quest'anno, per quanto riguarda in particolar modo le colombe, abbiamo un aumento medio di circa il 10%. Degli aumenti che arrivano fino a dei picchi con rilevazioni che hanno dato un valore del 76% sulla colomba. Certamente anche qui ci sono dei dati importanti divisi per provincia, dove risulta che Treviso è la città con il rincaro medio più alto, più 19%, seguito da Venezia e Verona. Invece Padova è quello dove i prezzi sostanzialmente sono calati addirittura dell'8%, questo per quanto riguarda le colombe. Quindi le colombe conviene comprarle a Padova, a quanto pare. Per quanto riguarda le uova di cioccolato, che sono un altro grande classico? Sì, per quanto riguarda invece l'uovo di cioccolato, invece qui abbiamo riscontrato che se non si va sui prodotti griffati si può avere un risparmio anche di circa il 33%, perché abbiamo notato come sostanzialmente i maggiori rincari, i prezzi più alti si hanno sui prodotti griffati, dove ci sono un po' i famosi giocattoli o i personaggi dei cartoni animati che normalmente i bambini cercano sempre più assiduamente in queste occasioni delle feste. Eh sì, poi quello del giocattolo è sempre un incentivo, quindi ci sono variazioni e variazioni. Ancora una volta il consumatore deve e può stare attento, insomma, ai prezzi e riuscire comunque a trovare un'occasione. Certo, per il nostro ancora una volta notiamo come educando i propri figli a stare un po' attenti a quelli che sono le tendenze, ma cercare di limitarsi a quella che è un po' la qualità del prodotto, si può certamente risparmiare, e qua questo per quanto riguarda l'uovo, mentre manifestiamo il nostro disappunto per quanto riguarda le colombe, perché invece sulle colombe tanti margini per poter risparmiare sostanzialmente non ce ne sono, anzi ci sono stati appunto dei significativi aumenti, e questo ci fa riflettere su come alla vigilia di certe importanti feste questi prezzi lievitano, ma credo anche che ciascuno di noi abbia quell'esperienza, come per esempio anche i panettoni a Natale, il Pandoro, di vedere come i prezzi, una volta trascorse, esaurite le feste, crollano e addirittura le trovi quasi in omaggio su delle ceste presenti in quasi la maggior parte degli ipermercati. Questo per farci capire come ci sono delle variazioni impressionanti sia in un senso che nell'altro. Voi avete analizzato i prezzi nei supermercati, in alcuni supermercati, però immagino che magari comprando lo stesso prodotto, penso alla focaccia o alla colomba, nella bottega, nel panificio sotto casa, insomma il risparmio possa essere evidente, no? Ecco, qui bisogna stare attenti con una cosa, come hai detto te, che purtroppo, quando si va sull'artigianale i prezzi possono arrivare anche a 16-17 euro al chilo per quanto riguarda la focaccia. Certamente questo prezzo non è più in linea con i prezzi che sono rilevati, che hanno come unico scopo rilevare i prezzi delle marche più note presenti nella grande distribuzione, però certamente molte persone a volte preferiscono pagare di più a prezzo della qualità, quindi anche qua diventa una scelta cosa volere. Addirittura ci sono dei panifici, ma ci sono anche pasticcerie che propongono dei loro prodotti artigianali, però qui allora non possiamo più paragonarli con altre di altre punti vendita perché sono riconducibili solamente a quel negozio lì, però certamente può diventare interessante e utile quando si decide di fare un regalo valutare anche cosa voler mangiare. Questa ricerca, dicevi, l'avete curata con il sito specializzato risparmiosuper.it e voi sul vostro sito associazionedifesaconsumatori.it avete una rubrica apposita proprio per la spesa, no? Sì, è da qualche settimana che abbiamo avviato una rubrica che si chiama Risparmio in Punto, dove tutti i consumatori possono ogni giovedì cliccare sullo specifico comunicato stampa e trovare quelle che sono tutte le tabelle con i maggiori prodotti in offerta questa settimana. Praticamente la rubrica andrà a rilevare quelli che sono tutti i prodotti in offerta nel Veneto, fa un elenco di quelli che sono più convenienti per provincia e li propone, e questo può essere un riferimento per il consumatore quando decide di fare la spesa, sapere i prezzi che ci sono o dove possono trovarli spendendo meno. E allora andate a consultare il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Noi con l'Adico ci sentiamo tra un paio di giorni. Grazie Carlo. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.